Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma di Radio 24 che vi rompe le scatole ogni domenica con la sua battaglia contro il multitasking. Sto pensando in particolare al nostro diciamo fedele ascoltatore che domenica scorsa implorava su Twitter: no, per favore non citate più il multitasking né all'inizio né alla fine. Ciascuno ha le sue ossessioni. Noi qui abbiamo l'ossessione del multitasking perché è una fregatura, caro ascoltatore di Radio 24. È una fregatura che soprattutto, come dire, influenza in peggio la vita di molte donne. Però se ci vuoi bene, seguici lo stesso e perdona la nostra citazione. Di ossessioni è costellata la vita di tutti noi, ma anche di soddisfazioni. Scusate, non è una soddisfazione che Ivanka Trump, la first daughter americana, scriva un libro che esprime alcune delle perplessità, delle problematiche che domenica dopo domenica affrontiamo qui a Nessuna è Perfetta. E dalla first daughter passiamo alla première dame, Brigitte, ormai la conosciamo tutti col suo caschetto biondo, Brigitte Trogneux, coniugata Macron. Brigitte, dicono tutti, che è stata una delle chiavi del successo, della vittoria di Emmanuel Macron. E però di sicuro quello che ho potuto constatare analizzando i dati relativi alla prima tornata elettorale, quella in cui Macron si qualificò per il ballottaggio insieme a Marine Le Pen, in quell'occasione sicuramente le elettrici tra i 45 e i 65 anni hanno dato un forte impulso alla vittoria di Macron. Insomma, si sono riconosciute forse nella première dame, in questo amore così poco scontato. Lei ha 24 anni più di lui e la notevole differenza di età ancora oggi nel 2017 ha suscitato una quantità di commenti, frecciatine, retroscena. Addirittura la cosa, no, più banale è che si tratta tasse di un rapporto madre-figlio, una copertura, perché secondo alcune diciamo fonti, non so quanto francesi o quanto invece di social media eteroguidati, insomma secondo queste fonti Macron è il paladino di una potente lobby omosessuale, e il tutto perché sta con la simpatica e forte Brigitte da quando aveva 16 anni. Insomma, comunque è la prima volta che il pettegolezzo sulla presunta omosessualità di un politico in ascesa, tanto in ascesa che è diventato Presidente della Repubblica, fa flop, nel senso che non ha avuto alcun effetto sulla elezione di Macron. E sono proprio curiosa di sentire cosa pensa la gente provocatore di questa domenica. Benvenuto Filippo Maria Battaglia, giornalista di Sky TG24. Bentrovati, grazie. Filippo Maria Battaglia è stato già ospite di Nessuna è Perfetta con Stai zitta e vai in cucina, il suo libro di qualche tempo fa, e ora torna con un nuovo libro, Ho molti amici gay, la crociata omofoba della politica italiana per Bollati Boringhieri. Filippo Maria Battaglia, prima di raccontare un po' quelle che sono state le manifestazioni omofobe della politica italiana, vorrei chiederti, secondo te, perché ha fatto flop l'utilizzo dell'arma rivelata sia appunto spuntata, di mettere in circuito il gossip sulla presunta omosessualità di Macron. Perché probabilmente la società francese rispetto a quella italiana sotto questo punto di vista è un po' più avanti. I dati e le statistiche ci dicono che l'omofobia in Francia è presente ma in modo molto meno rilevante che in Italia, e questo, grazie a Dio, condiziona molto meno l'opinione pubblica e l'elettorato. E in una sfida così polarizzata, una simile, diciamo, diceria che appunto non era suffragata da alcuna prova, alcun contesto, e poi qualora fosse una prova da esibire, comunque, diciamo, non ha certamente fatto presa nell'elettorato, ecco. C'è un atteggiamento che è proprio di alcuni partiti, o è un atteggiamento bipartisan, quello della diffidenza in politica rispetto all'omosessualità? È stato bipartisan nel primo trentennio della Repubblica Italiana. In Non molti omicidi gay racconto molti episodi che riguardano la sinistra, da Togliatti a Berlinguer, che insultavano i propri avversari politici, allora anticomunisti, definendoli filosofi degli invertiti o pederasti. Questo capitava a sinistra come a destra, appunto mostri sacri, icone sacri come Togliatti o Berlinguer non erano esclusi da questo, così come a destra accadeva. Devo dire che poi negli ultimi 20-30 anni a sinistra le cose sono migliorate, anche se, mentre a destra sono rimaste un po' negative, e a sinistra però è rimasta una certa diffidenza, almeno fino a qualche anno fa, a trattare dei temi, dei cosiddetti diversi, considerati minoranza e per questo non prioritari rispetto all'agenda del paese. Ci sono vicepresidenti del Consiglio o segretari di partiti di sinistra che nel 2006, quando si discuteva dei cosiddetti dicono, sì, dicevano che il centrosinistra si era fatto incastrare in questioni marginali rispetto ai veri problemi del paese. Quindi questa resistenza è rimasta, però in modo diverso rispetto a destra. Senti, nel libro fai parecchi esempi, no? Citi frasi omofobe rimaste celebri. Io personalmente ricordo quella degli anni 90 dell'allora portavoce di Gianfranco Fini, Francesco Storace, che a un gruppo di colleghi che gli chiedeva Francè, dici qualcosa di sinistra, mi pare che fosse così la frase, rispose afroci. Sì, è una frase rimasta negli annali grazie alla penna acuta di Guido Quaranta, è stata smentita da Storace, però resta comunque una delle frasi che incardinano bene il livello del dibattito politico in Italia, così come accadeva con il maschilismo. Quando il dibattito politico diventa arroventato, allora l'accusa di omofobia, in questo caso scagliata all'avversario, anche in modo assolutamente, cioè in ogni caso in modo assolutamente arbitrario, ma anche nei confronti di personaggi pubblici che non sono eterosessuali, secondo una certa classe politica, un certo tipo di classe politica, serve a squalificare l'avversario. Senti Filippo, ma se tu volessi fare, come dire, un florilegio, cogliere fior da fiore le battute che danno più l'idea di quanto appunto sia stata omofoba la politica italiana, quali battute citeresti? Puoi farne due o tre, insomma. Guarda, appunto, ti citerei a sinistra probabilmente Pasolini e Togliatti e Berlinguer, che entrambi appunto... Ma qual era la frase? Togliatti nei confronti di Gide, che accusava, insomma, cercava di fare un'analisi contro il comunismo piuttosto strutturata, disse lui è stato in Russia, se quando fosse stato in Russia gli avrebbero dato un bel bestione, così dice, probabilmente certe cose non le avrebbe mai dette. È una frase che lascia interdetti, soprattutto se si conosce il livello intellettuale anche di Togliatti, che era sicuramente abituato a... quindi dire, sì, ci sono delle cose sorprendenti, le reazioni sorprendenti. Invece a destra? A destra un'icona conservatrice che poi è stata riutilizzata a sinistra, sicuramente il Presidente della Repubblica Scalfaro, no? Che negli anni della sua presidenza decise di non presenziare ai funerali di Versace e non inviò neanche un telegramma. Il Foglio scrisse: per quanto sia un bravo stilista, è comunque gay, quindi alla cerimonia non, il presidente non va, il Foglio lo diceva in modo ovviamente polemico. Quello fu un episodio che, ripensandoci oggi, mi sembra incredibile. Grazie Filippo Maria Battaglia e buona domenica. Grazie a voi, buona giornata. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta e, come sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. E la nostra Sunday Girl di questa domenica è una donna che non si ferma mai davanti a niente. Benvenuta, buona domenica Simona Ventura, benvenuta. Buona domenica anche a te, buona domenica a tutte voi, a tutte noi. Poi. A tutte noi. Allora, dopo il successo della prima edizione, sei tornata da lunedì 8 maggio con Selfie in prima serata su Canale 5. È una bella... Sono tornata con Selfie, ti devo dire che è una grande soddisfazione, è un programma che è iniziato in un modo e sta finendo in tutto in un altro e sta cambiando ognuno di noi, perché il fatto di far del bene alle persone veramente ti dà tanta soddisfazione, si va a casa sicuramente più leggeri e col cuore carico di nuove emozioni, nuove sensazioni. Perché Selfie ha, per chi non l'avesse ancora seguito, ha, diciamo, come missione quello di aiutare le persone che vivono negativamente un aspetto fisico oppure si sentono psicologicamente insicure. Esatto, insicure, che vogliono cambiare qualcosa del proprio aspetto, che sia fuori o dentro, però che magari per tutta una serie di motivi non sono mai riusciti a portare questi cambiamenti, che siano motivi economici, ovviamente nella maggior parte, oppure tante volte tu cadi in un buco nero e non riesci mai a recuperare. E Selfie non vuole ovviamente cambiare un percorso di vita, ma vuole solo dare uno stimolo, a stimolare, insomma, una rinascita, una ripartenza. Poi sta la persona stessa, ovviamente, essendo arbitra del proprio destino, sta la persona stessa cercare di vivere la propria vita come meglio crede. Insomma, noi cerchiamo di dargli una spinta verso questo. Noi facciamo un po' questa cosa sul fronte del lavoro. Infatti questo è un programma che si chiama Nessuno è perfetta, perché parte dal presupposto che la perfezione è una fatica, come dire, da non affrontare in una vita sola. Prendiamoci un po' così come siamo e miglioriamoci poco a poco. Tante volte l'imperfezione forse è anche più importante. L'importante è che non sia un'imperfezione continua, ci vuole, diciamo, una varietà di stimoli e una varietà di colori nella nostra vita, no? E infatti noi parliamo di varietà in questa puntata anche sotto il profilo delle scelte sessuali, perché parliamo della varietà che è assolutamente ormai entrata, anzi è sempre più popolare nelle dimensioni degli uffici, nel mondo dello spettacolo, poi più che mai di persone che non nascondono le loro scelte sessuali e, per esempio, si definiscono senza problemi gay, lesbiche, eccetera. E nel mondo dello spettacolo questo forse è un po' più facile che in un ufficio di provincia. Ma io credo che sia delle persone di buon senso e anche delle persone che abbiano una mentalità un po' aperta, no? Una mentalità, se vogliamo, che per troppi anni è stata un po' chiusa nel nostro paese, quella di giudicare le persone per quello che facevano in camera da letto. Invece le persone vanno giudicate per quello che fanno poi al di fuori di quello che sono le loro, diciamo, i loro gusti sessuali. Insomma, lo dice anche la Costituzione, per cui io non ho mai trovato giusto che una persona che sia gay o lesbo o eterosessuale possa essere potesse essere giudicata per le sue scelte, ma anzi doveva essere giudicata per quello che lui faceva, quello che lei faceva, se era una brava o una cattiva persona. Cioè, l'intelligenza secondo me non ha senso, quindi sono ben contenta che con l'andare del tempo e con l'insistenza, devo dire, con l'aprirsi verso il futuro, adesso questa cosa, anche grazie a internet, questa cosa è molto, diciamo che questa cosa è molto migliorata, un pregiudizio che secondo me è assolutamente superato. Abbiamo visto che tra l'altro è un'arma, come dire, che se viene usata in politica fallisce miseramente. Nelle settimane scorse, quando Macron saliva nei consensi in Francia, cominciarono a dire che siccome è sposato con una donna che ha 24 anni più di lui, era impossibile che si trattasse di un matrimonio vero, di un vero amore, era un matrimonio di facciata perché lui era gay. Ma le voci, fondate o infondate, gay, sì. A me interessa di vedere un po' Macron sul campo, ma insomma, diciamo, la salire di corsa sul carro del vincitore è sempre stata una nostra prerogativa. Ho visto non ho mai visto una corsa che neanche usa in volta nei 100 sì. metri nel salire sul carro del vincitore. Siamo Macron. Tutti macroniani adesso in Francia, sì, poi adesso sì. No, io sinceramente voglio vederlo alla luce dei fatti, ecco, questo sì. Voglio vedere cosa potrà fare. Certamente è un simbolo della speranza per l'Europa, è un giovane, il fatto che avesse questa moglie, l'età della moglie a me personalmente non interessa nulla, mi interessa che possa fare qualcosa per la Francia e quindi per l'Europa, e quindi siccome noi siamo in Europa anche insomma in chiave, diciamo, italiana. Ecco, ma la cosa che ha colpito è come si sia sgonfiata miseramente l'arma del pettegolezzo sul fronte dei gusti sessuali, perché non funziona più. Esatto, no, non funziona più, ma in Francia, forse può funzionare ancora in Italia, mi dispiace dirlo, forse questa cosa qui era una pruderia anche molto italiana, no? Però in Francia è fallita miseramente, perché comunque sia siamo a un punto in cui i vecchi partiti, il vecchio establishment sta fallendo miseramente, si cercano altre persone e finalmente si guarda anche quello che possono fare e quello che possono fare nella vita pubblica. Poi nella vita privata uno fa un po' quello che vuole. Quindi aspettiamo i risultati e vediamo, giudichiamo da quello che porta. Io non mi esalto più, diciamo, l'ho fatto in passato, ma adesso voglio vedere le persone alla luce dei fatti, quello che succede dopo, perché è troppo facile, capito, poi salire sul carro, dice ah che meraviglia, è arrivato, diciamo, il nuovo messia, però poi dopo alla luce dei fatti vediamo i risultati, vediamo quello che sono i suoi progetti, vediamo se li porterà a termine. Senti, un'ultima, sono pronta a salire anch'io, anche tu dopo, chiunque altro. Chariot Macron. Un'ultima cosa, da sempre, no? Tu sei conosciuta come Super Simo, hai seguito passo passo non soltanto l'evoluzione dei tempi, la tua carriera, eccetera, ma anche l'educazione dei tuoi figli. Noi qui a Nessuna è Perfetta abbiamo una teoria, cioè il multitasking, di cui siamo vittime tutte, me compresa e più che mai, è però un'enorme fregatura, perché costringe le donne, soprattutto loro, a dimostrarsi brave in terreni diversissimi, a essere brave mamme, ottime professioniste, mogli eccellenti, amiche, figlie di genitori anziani che accudiscono, e poi anche in perfetta forma fisica, sempre truccate, cioè cose che forse a nessuno sarebbero chieste. Sì, certamente... Tu col multitasking che rapporto hai? No, il multitasking lo seguo, certamente come tutte le persone, come tutte le mamme, come tutte le mogli, come tutte le persone che lavorano, ho le mie difficoltà, però cerco di portare avanti tutto. Certo, ho capito in questi anni che qualcosa sul campo devo pur lasciare, qualcosa sul campo si lascia, anche se noi... Tu cosa lasci? Un grande fallimento, io ho lasciato un matrimonio... ho lasciato tante cose per perseguire determinati obiettivi, per i figli, per le cose, però poi dopo tutto con la calma, col tempo torna, diciamo, questo è un tempo che non ti dà tempo, ecco, questo è il mio gioco di parole, nel senso che è tutto molto caotico, tutto psicotico, tutto veloce, invece bisognerebbe fermarsi un attimo e che con calma, dicevano i nostri nonni, chi va piano va sano e va lontano, con calma, ciao, con calma le cose si mettono a posto. Tua figlia, la tua bambina, quanti anni ha? A mia figlia ha 10 anni. E a tua figlia che messaggio lanci come futura giovane donna? Che cosa le trasmetti? Mia figlia, come ho dato ai maschi, naturalmente in maniera diversa, eccetera, mia figlia lascio il meglio di quello che ho ricevuto. Non si può avere la patente di buon genitore, siamo sempre abbastanza, ovviamente ci sentiamo sempre non all'altezza in determinate occasioni, però devo dire che con lei ho un rapporto molto bello, è una bambina speciale. E parliamo molto e insomma cerco di dare il meglio di quello che ho ricevuto. Certamente loro sono figli di internet, per cui sono tecnologici al massimo, eccetera eccetera, quello che forse gli manca è proprio questa, cioè non riescono a concentrarsi e non riescono a rilassarsi, quello gli manca un po', però insomma è una bambina che spero le spero il meglio, ovviamente. Beh, e tutto quello che tutti noi sempre speriamo per figli, per bambini, di amici, eccetera. Simona, un grande in bocca al lupo per selfie, per tutte grazie, le avventure che aspettano i concorrenti, e davvero speriamo che per alcuni di loro la partecipazione in TV non sia soltanto il momento della visibilità, dei 5 minuti di popolarità. È un grande stimolo per migliorarsi, per rivivere. Vedere queste persone che piangono di gioia è già per noi una grossa soddisfazione. A te Maria, grazie, e ci manchi nell'editoria, quindi torna presto. Buona domenica allora. A te. Grazie, ciao, Simona, grazie. Ciao. Nessuna è perfetta. Bentornati alla terza parte di Nessuna è perfetta. Noi questa domenica parliamo di diversità, stimolati dalla lettera di una nostra ascoltatrice Lucia, che ascolterete tra poco, e stimolati dal fatto che nella recente campagna elettorale francese, di cui tutti stiamo ancora parlando, un argomento usato contro Emmanuel Macron è stato quello di avere un matrimonio di facciata e di essere in realtà gay, come se l'essere gay fosse un limite alla sua candidabilità. Allora, parlando qui a Nessuna è perfetta tutte le domeniche di lavoro e di problematiche sul lavoro, estendiamo questo aspetto della vita di relazione alla politica con i nostri due esperti di questa domenica. Imma Battaglia, attivista, una dei leader del movimento LGBT in Italia. Buona domenica, Imma Battaglia. Buona domenica a tutti, grazie. E Mario Adinolfi, giornalista politico, direttore della Croce. Buona domenica. Allora, Adinolfi, tu hai dedicato molta attenzione a Macron. Sì. E quando lui è stato eletto hai twittato: per la prima volta i francesi hanno eletto una donna alla presidenza della Repubblica. Ti riferivi al fatto che Brigitte Macron è quella che in casa porta i pantaloni, determina tutto? Ma per la verità la battuta l'ho copiata, ammetto, l'ho copiata a Marine Le Pen, che aveva detto: comunque andrà, sarà eletta una donna, o vincerò io, o vincerà anche la Merkel. Mi riferivo all'asse franco-tedesco, che veniva estremamente rafforzato, non a caso il prima visita all'estero di Macron in Germania. Ah, ho capito, quindi tu stavi su una chiave, diciamo, di geopolitica. Noi molto più modestamente pensavamo che fosse una battutaccia sul ruolo aveva di Brigitte. Dicendo, Twitter ti dà 140 caratteri, Twitter, e quindi certo. si usa le 140 caratteri. Battaglia, perché il pettegolezzo usato contro Macron, vale a dire si è sposato con una donna di 24 anni più grande perché in realtà è gay, perché questo pettegolezzo ha fatto flop, non ha avuto alcun effetto sulla campagna elettorale, tant'è che lui adesso è all'Eliseo. Beh, diciamo che in Francia sono abituati da un bel po' di tempo ad essere all'avanguardia rispetto ai politici gay. Ricordo il caso del sindaco di Parigi, della certo. NOM, quindi credo che proprio sia una nazione fortunatamente che ha superato il gossip intorno al tema gay. Anzi, peraltro io ho apprezzato molto il fatto che in realtà Macron sia un vero diverso, perché è atipico il caso in cui un uomo abbia una moglie più grande, no? Siamo abituati a vedere gli uomini che hanno 20 anni meno delle donne che cui si accompagnano, per cui io trovo che sia ancora una volta la Francia una grande avanguardia in tema di diversità e di diritti. Ecco, una cosa che suscita normalmente in tutti i casi in cui un banchiere si candida a un ruolo politico è quello che rappresenta la lobby, i poteri forti, l'establishment, eccetera. In questo caso, all'accusa di essere un banchiere messo lì dai poteri forti, si è aggiunta l'accusa di essere il paladino della lobby gay, e ad Inolfi ovviamente non si è fatto scappare l'occasione di twittarlo. È un po' gratuita questa questo pregiudizio ad Inolfi, se non sappiamo il tema in Francia era un po' più complesso, cioè il tema non era che fosse gay, il tema era perché non lo dicesse, cioè il dibattito in Francia non si è innescato sul fatto che fosse o non fosse gay. Il dibattito che ha poi ha avuto uno sviluppo molto importante, che non ho sviluppato io, è stato indicato addirittura chi era il nome del fidanzato, che era il vertice di Radio France, insomma tutta una serie di questioni non da gossip, ma questioni politiche, cioè dicevano perché il probabile presidente francese non racconta tutto della sua vita, questo è l'elemento interessante. Insieme c'è la questione dei legami con la massoneria, che è una questione abbastanza importante, perché non dice, non esplicita alcuni legami, perché alcuni finanziatori, i più grandi finanziatori della campagna di Macron sono George Soros, David Rothschild e Goldman Sachs, con circa 6 milioni di euro versati. Questi temi non sono temi banali che attengono alla diversità o se si è sposato con una signora più anziana. La domanda era, ed è tuttora, chi è davvero Macron? Allora, questo è l'elemento che sicuramente interessa. Se dietro questo paravento c'è una rappresentanza di una lobby ben precisa, questo andava esplicitato ai francesi. Sicuramente sui temi, che poi sono le cose che mi interessano di più, Macron è assolutamente uno che rappresenta le istanze del mondo LGBT, istanze che come è noto io contrasto. Ecco, ma Battaglia, se dallo scintillio del potere che ora vede Macron perfettamente inserito, se da questa immagine appunto di successo che ora ci viene trasmessa ci spostiamo a un terreno molto più day by day, vale a dire se uno è gay e non ha voglia di dirlo, per esempio nel proprio ambiente di lavoro, ha tutte le ragioni per farlo, o invece sarebbe meglio trovare il coraggio e aprirsi? Io credo che il dichiararsi sia un fatto esclusivamente personale e che merita molta attenzione e rispetto, perché non è scontato che per le persone il percorso del coming out pubblico sia un percorso doloroso facile. Talvolta, non no? solo per il fatto di dichiararsi in pubblico, come fatto proprio personale, è una maturità e un processo individuale molto particolare. È chiaro che nel caso di un politico io ritengo che sia fondamentale la trasparenza e quindi sono completamente contraria ai politici che si nascondono rispetto al tema dell'omosessualità, piuttosto che anche anche quelli che sono sposati regolarmente, che invece hanno le doppie vite, tradiscono le mogli, tradiscono i mariti. No, io credo che il mondo oggi più che mai chiede politici seri. Per il caso di Macron qui facciamo delle illazioni, perché sì, insomma Macron ha una relazione da lungo tempo con quella che è la moglie, quindi io non riesco a capire. A proposito dei politici che secondo Imma Battaglia dovrebbero essere sempre trasparenti, nel gesto di dichiarare in TV la propria omosessualità, Imma Battaglia ha riconosciuto il fatto che fosse un gesto politico, vero? Beh, assolutamente, anche perché io ed Eva abbiamo una relazione da molti anni. Eva Grimaldi, sì, esatto. E ne abbiamo parlato molto, sinceramente, però noi non ci siamo mai nascoste. La dichiarazione pubblica in uno spettacolo popolare, in uno show televisivo, è un'altra cosa, è un momento che ha a che fare con una, come dire, una dichiarazione broadcast, no? che è diversa da quella nell'ambito familiare, degli amici. Ecco, quella lì noi sapevamo che avrebbe avuto un effetto anche abbastanza devastante, impattante, invadente nella nostra vita privata, e avevamo scelto di essere più riservate. Nella mia vita politica era, è sempre stata presente. Io ricordo delle sedute di consiglio comunale di bilancio in cui Eva è stata con me anche fino alle 2-3 di notte, no? Quindi sì, io come personaggio politico non ho mai nascosto nulla, ma diciamo da illo tempore, non certo da oggi. Il momento in cui un personaggio di spettacolo, ed è la prima donna riconosciuta e riconosciuta, la prima artista in Italia, che fa una dichiarazione non generica, no, di essere gay, ma dice io amo Imma Battaglia, credo che la potenza di questo gesto è ben più forte della semplice dichiarazione sono gay. Eva ha dichiarato a telecamera fissa amo Imma Battaglia, e io credo che l'amore, la dichiarazione dell'amore abbia una potenza mondiale, universale, impattante, molto bella, e ha anche riportato, per quanto mi riguarda, sul filone giusto la questione gay. Trattasi d'amore e l'amore è meraviglioso. È anche vero ad Inolfi che c'è una super esposizione adesso. Si sta vedendo in tutti gli eventi a Hollywood le attrici che si baciano sulla bocca, c'è quasi la necessità di rompere il tabù, ma romperlo continuamente. Può essere un effetto, può creare un effetto, diciamo, di saturazione? Diciamo la verità, ormai è una moda, insomma, è una moda che funziona. Si va sul palco del Festival di Sanremo con il nastrino arcobaleno obbligatorio applicato direttamente dai dirigenti RAI, al Festival Nazional Popolare per eccellenza, ci si espone a un applauso generalizzato, perché questa appartenenza è un'appartenenza universalmente ormai dal punto di vista mediatico. Purtroppo anche dal punto di vista politico e giuridico, che è la questione un pochino più complicata rispetto al diritto di famiglia, è qualcosa di universalmente accettato. Di chi vendo la va in America, si compra un bambino, torna in Italia e va in prima pagina sulla copertina del settimanale berlusconiano patinato, cioè con il bambino in braccio mentre fa il bagno a mare, sicuramente con una fotografia non rubata, diciamo così. È ormai diventato establishment tutto questo. È molto interessante, è una novità. Non da poco che una piccola lobby si sia fatta establishment, ed establishment di quelli veementi, violenti, potenti, che all'interno di molti contesti rappresenta qualcosa di assolutamente inscalfibile, perché se provi a mettere in discussione alcune questioni diventa omofobia immediatamente, addirittura il voler discutere se è giusto o no l'utero in affitto. Grazie a Imma Battaglia, attivista e politica italiana, leader del movimento LGBT, e grazie a Mario Rinolfi, direttore della Croce. Buona domenica. Ciao a tutti e due. Grazie. Grazie. Ciao. Nessuna è perfetta. Ecco, questa è l'ultima parte, lo sapete, di Nessuna è perfetta, coincide con la lettera della settimana, che è stata un po' lo spunto per questa puntata, perché siete spesso voi a suggerirci i temi di domenica in domenica, e in questo caso il tema ce l'ha davvero fornito Lucia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo nessunaeperfetta@radio24.it o contribuire con i vostri commenti su Twitter e su Facebook. Cara Maria, scrive Lucia, ho 43 anni e lavoro in una grande azienda. Non so se il tema sia in linea con gli argomenti che trattate di solito, ma ci provo. Tra i miei colleghi ci sono anche due gay. Io non ho assolutamente nessun problema, ma noto che altri nei loro confronti hanno un atteggiamento ipocrita. Di facciata sono tutti gentili, disponibili, ma quando loro girano le spalle non mancano le frecciatine e i commenti della serie «Stanno facendo la lobby gay». Che cosa succede, secondo te, nei nostri uffici dove si parla tanto di parità, di genere e di diversità? Già, cosa succede, Lucia? In realtà credo che nei confronti dei tuoi colleghi gay ci sia un misto di pregiudizio non espresso e, come dici tu, preso, cioè nascosto sotto la facciata ipocrita dei sorrisi, ma poi sotto sotto anche la vecchia tradizionale diffidenza nei confronti di chi magari è più bravo e può fare può essere una minaccia alla tua carriera. Vediamo cosa ne pensa la nostra coach di questa domenica, Carla Ciani. Buona domenica, Carla Ciani. Buona domenica a tutti. Allora, la prima delle pillole che vorremmo da Carla Ciani su questo tema è appunto riconoscere il diverso in questa situazione lavorativa, appunto. Individuiamo un pregiudizio che viene mascherato o piuttosto c'è il timore di vedersi ridurre il proprio, diciamo, le proprie potenzialità di carriera? La prima pillola ci deve aiutare a comprendere che il bisogno è antico, è un bisogno di riconoscerci in un gruppo di simili tra i quali noi possiamo stare e muoverci con sicurezza. Ciò che conosciamo e ci è noto ci tranquillizza, ma in realtà ogni volta che in azienda soprattutto entra in un gruppo già costituito un nuovo componente, al di là dell'accoglimento formale sempre deve essere superato questo test di ingresso e tutta una serie di paure. Poi quando ci sono diversità culturali, sessuali, di età anagrafica, scattano dei meccanismi di difesa molto forti. Cioè quelli che c'erano prima fanno barriera e temono che i nuovi arrivati possano sottrarre loro assolutamente o possano qualcosa. Portare dei contenuti di potere, no? Quindi questi meccanismi di difesa al cambiamento della composizione del gruppo sono molto forti e l'accoglienza è solo formale, cioè come dire imposta dalle regole del contesto. Rimangono i pregiudizi, i preconcetti, le presunzioni, anzi si rafforzano tramite la paura, no? E tutto questo preconfezionamento ci limita, e quindi con questa pillola dovremmo, come dire, esercitarci a togliere il pre. Quindi sento di avere un pregiudizio, mi chiedo invece, togliendo il pre, qual è il mio giudizio in questo momento, come giudico questa situazione. ho un preconcetto, qual è ora il mio concetto rispetto a questa diversità? È una presunzione? Perché penso di presumere, cioè di già di conoscere qualcosa a riguardo? Insomma, questo esercizio di togliere il pre ci consente di comprendere meglio le cose in cui mi riconosco, quelle che rifiuto e magari se in questo rifiuto c'è la paura del cambiamento, la paura del potere dell'altro, la fatica magari di sperimentare l'altro. Ecco, vorrei vedere nella seconda pillola una valutazione di quello che è la citazione che faceva appunto la nostra ascoltatrice, vale a dire l'evocazione della lobby gay, no? Che è stata fatta anche per Macron in queste settimane, evoca appunto un gruppo di potere coeso che proprio perché coeso può portarti via qualcosa. Allora, negli ambienti di lavoro magari non è che proprio si citi la lobby come se fosse appunto la campagna elettorale di Macron, ma qualcosa del genere forse comunque si percepisce. In questo caso come si smonta questo pregiudizio? Ma prima di tutto con la coerenza. Francamente ritengo che non ci sia niente di più discriminante che da una parte la comprensione ad oltranza e dall'altra parte quelle situazioni in cui fa bello o fa potere essere giovane o essere senior o essere gay o essere donna, no? Certo. Alla base ci devono essere le competenze e le capacità. A volte questa rappresentazione della lobby o del gruppo coeso è una giustificazione alla nostra incapacità di accoglienza e anche di incapacità di vedere bene il valore del gruppo costituito. Capita viceversa anche che per la paura di passare per discriminatori ci facciamo andar bene tutto ciò che e magari arriva dal diverso, non ne siamo convinti e poi magari coltiviamo una certa rabbia. La cosa importante è che se davvero qualche comportamento del nostro collega diverso ci disturba o ci impaurisce, quando soprattutto poi pensiamo che possa essere addirittura fonte di incomprensione o di derisione, per favore alziamo il rischio e diciamoglielo. Sì, senza timore. Grazie a Carla Ciani, la nostra coach di questa domenica, e buona domenica. Buona domenica a tutti. Buona domenica anche a voi che ci avete seguito. Vi do appuntamento, come sempre, a domenica prossima.